occhi di mio padre che mi siede vicino. Nelle scuole chiuse per la prima neve, tra le linee della mano di un amico che lascia il paese, in un gesto cortese tra speranze ed attese della mia gioventù. Nelle tazze di tè tra una pagina e l'altra, nel panorama intravisto da questo treno che va, tra le maglie di mia madre che sembravano enormi, mentre aspetto che torni e disegni i contorni di questa città. Non saprei dirti dov'è questo cuore sparso. Io l'ho visto ubriacarsi di sogni, soffrire per gli altri, fare a pugni col mondo, ma non saprei dirti dov'è il mio cuore sparso. Io l'ho visto prendere la vita, scappare in salita, sedurre e testare il destino, parlare per me. Nella fine di marzo, nei primi giorni d'aprile, sconsolato di una bimba in un bar che dice ancora voglia di giocare con te, nei distanti orizzonti, negli istanti di noia quando arriva il silenzio. Non saprei dirti dov'è questo cuore.